Se noi ci chiediamo se c'è un segno che distingue il cristiano da tutti gli altri, dobbiamo rispondere che il segno è il segno della croce. Se voi andate, adesso è difficile, ma se si va in Terra Santa, in pellegrinaggio, vi accorgete subito se coloro che incontrate per strada sono musulmani, ebrei o cristiani. Cristiano, tutti hanno una croce al collo, una crocetta. Ancora oggi da noi qualcuno la porta, altri portano altre cose che gli interessano di più, magari il segno RH del sangue, oppure altri segni di vario genere che preferisco non nominare. È così vero quello che vi dico, che tutto in giro, dove si vuol dire qualcosa di cristiano, vede la croce. Sulla cima di tante montagne, la croce. Ancora in alcune aule di scuola oppure in alcuni ospedali, il crocifisso. Sulle Dolomiti, degli artistici crocifissi, nelle nostre case e così via. Dunque il crocifisso è il segno distintivo del cristiano e tuttavia mi piace fare un po' il provocatore benevolo, però non è il segno più importante del cristiano, è distintivo, ma non è il più importante. Il più importante è la risurrezione di Cristo. Peccato che se anche andate al cimitero non vedete quasi nessuna tomba con il risorto, pochissime, quasi tutte col crocifisso, magari una donna piangente a mo' della pietà. Eppure è il crocifisso. Ma lo diceva la seconda lettura, se avete il foglietto vi invito a prenderla in mano perché è chiarissima. Non ce l'avete il foglietto? Coraggio. Fratelli, dice Paolo, se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Caspita, cosa vuol dire questa frase così forte? Quelli che sono morti in Cristo sono perduti? Certo, se Cristo non fosse risorto. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare di più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di tutti coloro che muoiono. Eppure, anche nelle nostre case, quando c'è una morte, si fa fatica a parlare di speranza, di risurrezione. Quando si fa la Via Crucis in chiesa, finisce con la morte di Gesù Cristo, sepolto, deposto nel sepolcro. Qualcuno, ma è fuori regola, aggiunge una quindicesima stazione, Gesù risorge. Ma chi parla della risurrezione? Il Papa, che nell'aula Paolo VI hanno messo una stupenda risurrezione, artisticamente bella e imponente, di Pericle Fazzini, uno scultore di razza, Gesù che risorge. È tutta qui la mia predica, amici, ma non volevo perdere questa domenica, questa lettura, senza ricordare a me anzitutto, perché quando vi preparo la predica non crediate che io venga qui a improvvisare o a cercare sui bigini delle prediche. Mangio la parola di Dio e vi do il mio latte. Perché se per mezzo di un uomo, Adamo, venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dai morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Io ho quasi finito la mia predica perché mi importava lasciarvi questo insegnamento, un unico concetto. La risurrezione è la realtà più importante ancora della croce. E allora, siccome mi piace, se riesco, tradurre questo nella vita, vi voglio dare due suggerimenti concreti. Primo, avvicinandoci alla nostra morte, tutti siamo indirizzati lì, pensiamo profondamente al paradiso. Non ci pensiamo mai al paradiso. Ma non so come immaginarmelo. Beh, ci sono fior di artisti, c'è tutta un'arte classica che ci presenta il paradiso, a cominciare dall'Assunta. Maria è assunta in cielo nella gloria degli angeli e dei santi, il paradiso. Dovremmo, cari amici, lo dico anche a me, tenere presente, certamente, che siamo incamminati alla morte, ma tenere presente che siamo candidati al paradiso. E cercare di approfondire, se riusciamo, anche attraverso l'arte. L'arte è sempre stato un grande aiuto alla vita cristiana. A pensare al paradiso, la gloria Maria incoronata, regina. Ci sono dei dipinti stupendi, per esempio del Beato Angelico, del Perugino. Pensare la gloria di Maria in cielo, Gesù risorto in mezzo agli angeli e ai santi, che bello. E poi mi vorrei suggerire un secondo spunto. Parliamo del paradiso ai nostri bambini. Chi gli parla mai del paradiso? Temo nessuno. Forse perché sappiamo dire poco, forse perché per noi stessi non è così presente questo tema. Insegniamo ai nostri figli che c'è il paradiso. Tantissimi bambini, quando sono messi alla prova, disegnano delle croci o degli altari o il prete che dice messa. C'è il paradiso, insegniamo ai bambini il paradiso con la gloria degli angeli, dei santi. Facciamogli vedere meravigliose fotografie, immagini. Su YouTube, sul computer ne trovate tantissime. Fateglieli conoscere. Quando vedrò qualche stanzetta di bimbo con una grande riproduzione del paradiso, finora non mi è mai capitato. Sarà un grande giorno. Parlategli degli abitanti del paradiso, non tanto e non prima dei nostri nonni che sono andati con Gesù in paradiso anche, ma basta che gli diciate che sono andati con Gesù, e allora parlargli di Gesù risorto, il Gesù del Vangelo. Soprattutto parlategli della Madonna in paradiso, perché l'ospite più bella del paradiso è Maria Santissima. Chi lo dice? Lo dice lei stessa, perché quando appare su questa terra, in tutte le apparizioni, è bellissima. Io sto rileggendo per l'ennesima volta la storia di Lourdes e Bernadette dice: era bellissima. E tra l'altro Maria le fa questa promessa: non ti prometto di farti felice su questa terra, ma in paradiso. Ecco amici, volevo leggervi questo brano dei Corinzi, capitolo 15, versetto 17. Se Cristo non è risorto, siamo degli illusi. Per non essere degli illusi, sappiamo che Cristo è risorto, ma pensiamo al paradiso.